Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il bus guida sempre ragione, lasciavano lavorare, eravamo tutti, stavano un po' di zitti. E gli italiani da allora sono migliorati? Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io mi voglio vivere, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo, sono un lavoratore, sono diventato miliardario, mi farò diventare tutti migliorati, benissimo, a voi, avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. I tagliati sono fatti così, vogliono che qualcuno pensi per loro. Ritratto di Gasma adesso, oggi, della Grande Guerra, non è tanto distante dai ritratti degli italiani che abbiamo a fianco in questo periodo. Sì, in certo senso, però c'erano una loro spinta personale, un orgoglio, una dignità della persona più che della... Che noi abbiamo perso. Perso, sì, completamente. Sì, ormai tutti, diciamo, siamo tutti pronti a... Nessuno si dimette, tutti pronti a chiedere il capo, di mantenere il posto, di guadagnare, a sopraffarci. La generazione che è corrotta, che è malata. Che va spazzata via. Non sento speranza nelle tue parole, Raisel. La speranza di imparare è matrata, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è matrata di mettere dai padroni. Come finisce? Non lo so, finisce, ma io spero che finisca in una specie di quello che l'Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. C'è stata in Inghilterra, c'è stata in Francia, c'è stata in Russia, c'è stata in Germania, dappertutto fino in Italia. Quindi ci vuole qualche cosa che riscatti veramente questo popolo, quindi se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici.